Nuova edizione del Cielo Corto Film Festival. Siamo qui con Maddalena Bianchi dell'Associazione Culturale Chilodromo. Ciao Maddalena. Ciao, buongiorno Rachele, buongiorno a tutti. Allora, nuova edizione appunto del Cielo Corto Film Festival in questa nuova modalità ibrida, quindi un po' online, un po' in presenza. Come funzionerà? Ok, allora abbiamo deciso di continuare con l'online perché l'anno scorso è andato bene. Abbiamo deciso anche di estendere ancora di più, nel senso che quest'anno abbiamo deciso di non applicare una geolocalizzazione e quindi il festival online sarà accessibile da tutto il mondo. Per questo alcuni corti non ci saranno, infatti fruizione live è ovviamente quella che noi consigliamo per chi può essere in città e perché appunto per esigenze distributive di circuitazione di alcuni titoli non li abbiamo potuti mettere in piattaforma. Quelli delle distribuzioni, però appunto ci saranno in sala per chi può essere qui con noi. E ci sembrava importante per portare il festival su un piano internazionale e quindi versione ibrida l'abbiamo chiamata online e on-site. On-site sarà dal 24 domani fino al 27 sabato e invece sulla piattaforma si estenderà fino a domenica in modo che chi è a casa la domenica si possa godere i corti dal divano di casa. Perfetto. E qualche novità di quest'anno? Allora, abbiamo riportato la sezione Video Kill the Radio Star, che era l'unico format di cielo corto rassegna che non era ancora stata portata all'interno del festival. Quindi abbiamo fatto la call come per tutte le altre sezioni, ci saranno 10 videoclip in concorso che avranno un premio da una produzione musicale e poi ci sarà Talk Short dedicato al videoclip in una modalità un po' diversa dal solito perché di solito prendevamo in esame delle sceneggiature e mood board, insomma le fasi pre-produttive di corti sia d'animazione che documentari che fiction, invece per il videoclip si tratta di un lavoro un po' diverso perché è più una produzione, un'ideazione in itinere, quindi faremo un lavoro decostruttivo, cioè partiremo con i nostri ospiti da un lavoro finito per poi andare a rivedere come si costruisce. Ci sarà anche quest'anno la sezione off di Cielo Porno? Ci sarà, poi fra poco sentiremo le ragazze di Inside Porn che sono qui con noi, ci parleranno loro di quello che sarà la loro sezione, come al solito ruoterà un po' intorno a una tematica e però ce l'illustreranno loro, che lo sanno sicuramente meglio di me, ecco. Qualche evento speciale ci sarà all'interno del festival? Avremo come al solito Sound On, la nostra sonorizzazione live, che sembra un carattere un po' storico. Infatti, con la prima edizione avevamo portato dei materiali provenienti dall'archivio Movies sulla città di Bologna. Quest'anno invece siamo in collaborazione con Fondazione Gramsci e approfittando del centenario della nascita del Partito Comunista Italiano porteremo dei contenuti a tema insieme a una mostra di manifesti storici. Grazie Maddalena. E di che?